Di nuovo la nostra sigla e di nuovo in diretta e di nuovo tutti i tempi in una collina che nel cuore mi sta, è stato a sede di tanti ricordi sin da piccolo, sono stato piccolo anch'io, tra un poco invecchio ma sono stato piccolo anch'io, è San Michele in Bosco, dove vi è non solo una splendida chiesa che nasce nel 300, la pianta originale, monaci olivetani, poi i percorsi che danno spazio anche a una delle viste su Bologna, secondo me, più belle in assoluto. Istituto Ortopedico Rizzoli, San Michele in Bosco, stiamo parlando dei progetti di Archivio Z, quindi un grande abbraccio e un grazie ad Enrica San Giovanni e Gianluca Guidotti, che ho avuto ieri la fortuna di rincontrare durante la presentazione di questa, sì, chiamiamola rassegna se vogliamo, perché è veramente estesa nel tempo. Apre questa sera, ecco, unico aspetto che nella conversazione si dirà domani, ma no, è questa sera, portate attenzione perché è questa sera ed è da non perdere l'apertura. È estesa come spazio temporale, ma anche come spazio emotivo. Per quanto riguarda Vista Paradox, sentiremo poi nel dettaglio il contenuto dell'incontro che vede queste parole, no? Queste sensazioni come protagoniste, e poi anche quello che è incontro e lettura dalla Montagna Incantata di Thomas Mann, capolavoro assoluto. Grazie a Archivio Z avremo la possibilità di vivere all'interno del chiostro ottagonale, che appunto ieri ha avuto il palcoscenico per la presentazione di questi due incontri che poi, come ho detto, saranno estesi nel tempo. Inizio però questa sera, quindi attenzione, nell'intervista abbiamo avuto un motivo di asincronia nel dare informazioni, però lo preciserò più volte. E non ci resta che iniziare questo nostro viaggio per dare in uno spazio magico un contenuto culturale e di attenzione sociale, secondo me, fondamentale. Da grande amante dei luoghi più particolari di Bologna, ci troviamo in una situazione a dir poco stupenda, che grazie a Archivio Z verrà diffusa culturalmente con dei contenuti, come ben conosciamo da Archivio Z, oltre che originali, che portano valore aggiunto sia al luogo che all'aspetto culturale. Intanto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dove ci troviamo? Allora, in questo momento siamo nel chiostro ottagonale all'interno dell'area monumentale di San Michele in Bosco, cioè a dire dentro l'Istituto Ortopedico Rizzoli. Ma è, a parte appunto l'importanza storica dal punto di vista clinico, anche dal punto di vista artistico, qua siamo veramente circondati da meraviglie assolute. Sì, dietro di noi ci sono degli affreschi magnifici, tutto questo portico ottagonale, oltre a essere un'architettura straordinaria, è anche un luogo, come dire, da riscoprire, perché in qualche modo è uno scrigno nascosto all'interno di un complesso monumentale molto grande che abbiamo deciso, dopo le nostre vicissitudini a Villaldini. Noi abbiamo avuto una residenza artistica lì per 4 anni e adesso la villa è in restauro, in una fase di ristrutturazione, e quindi alla ricerca di una nuova residenza artistica ci siamo imbattuti fortunatamente. Siamo caduti bene, siamo passati da una collina a un'altra, quindi in qualche modo il Rizzoli guarda Villaldini, Villaldini guarda il Rizzoli, e ci ritroviamo qua. Il nostro ruolo in questo momento è quello di cercare di valorizzare artisticamente, attraverso spettacoli, letture, incontri, questo patrimonio inestimabile, e cercheremo di farlo a partire appunto da domani, il giorno in cui debutta il primo evento, che è il riallestimento della Montagna Incantata, pensato proprio per gli spazi del Rizzoli.

try to find a healer and her love.